Ed eccoci tornate in diretta per questa puntatona di Radio Contado. Ed è un buongiorno ricco di sole e primavera quello che ci circonda, eh? Sì, una bellissima giornata, splendida, splendente. Almeno qui in stazione, non so poi nelle piazze, come esatto, siate messi. A noi splende sempre il sole. Splende il sole e oggi avremo una puntata ricchissima, cara Grebana, vero? Esatto, ma soprattutto vorremmo che voi ci pensaste intensamente perché è la nostra prima puntata dell'anno senza la dama e quindi ci sentiamo un po' così, titubanti, tremanti. Però anche grandi, bene. Emozionate, esatto. E grandi finalmente. Per una nostra crescita personale, speriamo. Grande dama, ascoltaci, speriamo di essere all'altezza. Ma allora. Sì. Allora, noi ci avremo una puntata super super intensa con un sacco di ospiti e non so, quasi quasi non vi svelerei niente, vi manderei direttamente una prima canzone e poi rientriamo con il primo ospite della nostra giornata, così creiamo un po' di suspense, non vi diciamo nulla. A tra poco. Over 90% of fruit and vegetable work is done by migrant workers. Over 30,000 men and women come to the UK every summer, leaving their families and friends behind. They come to the UK for short periods of time, 6 months or less, and in this time, they feed the nation. Take a look down the side of the road. Offer up your hands and leave your homes. There's dirt and dust and sod and loam. These are the fields where nobody goes. Do you see all the pickers in a row? Offer up your hands and leave your homes. Toiling under the sun's bright glow. Down in the fields where nobody goes. Take it back, the hirsutes all sing. Offer up your hands and leave your homes. With one proud voice make valleys ring. Down in the fields where nobody goes. Join all hands forever. Feel our woes as we all go down together. Down to the fields where nobody goes. Join all hands forever. Feel our woes as we all go down together. Down to the fields where nobody goes. Your back hurts, your neck hurts. Out of 10 fingers, on 6 you have calluses. Proudly here to load your plate. Offer up your hands and leave your homes. Your families at home they wait. Down in the fields where nobody goes. To toil abroad is our sad work. Offer up your hands and leave your homes. But have your way, see the food all rot. Down in the fields where nobody goes. Join all hands forever. Feel our woes as we all go down together. Down to the fields where nobody goes. Join all hands forever. Feel our woes as we all go down together. Down to the fields where nobody goes. So take a rod to break my back. Offer up your hands and leave your homes. Toil for the dream till my spirit cracks. Down in the fields where nobody goes. Unseen graft while idle we stay. Offer up your hands and leave your homes. Now pick for Britain and fade away. Down in the fields where nobody goes. I understand work is work, but I still think that first of all, it is necessary to remain human. Brave new world from the thoughts we cast, the embers glow but the dream is past. Brave new world from the thoughts we cast, the embers glow but the dream is past. Joy your hands forever, feel our woes as we all go down together, down to the field where nobody goes. Join all hands forever, feel our woes as we all go down together, down to the field where nobody goes. Ed eccoci tornata in diretta con questa bellissima canzone di Peddler Russell, che ha fatto questo progetto. È una, il tema di questa canzone, per questo ve l'abbiamo proposta, è quella degli operai agricoli, e questa canzone è stata comunque prodotta all'interno di un progetto di ricerca di un'università britannica. Ci sembra molto celtica, in vena comunque con il periodo, e quindi abbiamo pensato di proporvela, Peddler Russell. Ma veniamo ai nostri ospiti. Prego, Grebana. Esatto, dovrebbe essere con noi qua in diretta un compagno della comunità vicentina per l'agricologia. Vediamo se ci senti intanto. Eccoci, eccoci. Perfetto. Qua, sì. Ciao, vi sento. Ottimo, è già è una gran cosa. Allora, visto che con te non abbiamo mai avuto ancora il piacere di parlare... È semplice fino a un certo punto, però dai, no, diciamo che noi è un gruppo di compagni e compagni, insomma, che hanno... iniziato a provare a mettersi insieme ormai dal 2020, quindi possiamo dire che sono un po' di anni che è nato questo collettivo, di fatto questo gruppo, e dal tempo appunto abbiamo cercato un po' di consolidarci. Poi ovviamente in queste situazioni c'è chi si aggancia, chi esce, però insomma sono sempre queste dinamiche un po' fluide, ma la cosa che ci unisce è comunque un po' il lavoro che per la prima volta direi anche stiamo cercando di portare appunto il tema dell'agroecologia a Vicenza, nel Vicentino in generale, sul nostro territorio, non solo per quanto riguarda appunto aspetti di pratica, ma soprattutto anche un po' per la parte di movimento, ecco. E quindi nella sua accezione di movimento agroecologico cerchiamo di portare avanti un po' di temi attraverso varie forme, poi magari vi dico qualcosa. E rispetto a quello che è appunto un sistema agroalimentare alternativo rispetto a quello agroindustriale, quindi diciamo che si cerca di dialogare con varie realtà che più o meno sono attive sui territori, ad esempio il gas, ad esempio case delle sementi, insomma tutti quei soggetti che già in un certo senso hanno sempre fatto una forma di attivismo per cercare di costruire un sistema agroalimentare alternativo a quello industriale, e noi nel nostro piccolo appunto cerchiamo di fare un lavoro anche più, diciamo, legato a quello che è la parte produttiva, quindi cercare di collegare, di coinvolgere anche magari il mondo agricolo, che su queste tematiche insomma è sempre bello ostico. Ecco. Sì. Ma senti, quindi c'è uno spazio fisico dove vi trovate, dove fate attività? Allora, in realtà noi siamo abbastanza nomadi, nel senso che non abbiamo una sede, però fondamentalmente uno dei percorsi, dei progetti sui quali siamo maggiormente coinvolti è quello di Cascina Carpaneda, che è una Pannoni e zone industriali, dove però appunto c'è questo edificio appunto di proprietà pubblica del comune, dove stiamo cercando, diciamo, assieme a dei fondamentalmente quello un po' il luogo dove operiamo, ecco. Ok. E senti, abbiamo visto, avete fatto anche voi una bella giornata di scambio semi da poco. Sì, abbiamo lavorato questa volta con, anche questa volta direi, con delle realtà qui in Veneto, con le realtà appunto che sono a Vittorio Veneto, ma se ne è organizzato anche insieme sempre ad alcuni soggetti qui di Vicenza. Un paio di giornate sul tema degli OGM, dei nuovi OGM, quindi è abbastanza sfuggita di mano. Ci sarà tra qualche giorno, tra qualche settimana il voto al Parlamento Europeo, appunto sono veramente in pochi che ne parlano, siamo reduci appunto da due si agganciare anche degli agricoltori convenzionali con cui dialoghiamo, per cui insomma non è facile. Perché sono temi che però diciamo ci davamo cos'è sta roba, e quindi diciamo quella è un po' anche una chiave di volta per provare ad agganciare certe realtà che poi insomma, è dietro l'angolo. Per uno padana chiaramente sapete, cioè, come dire, un territorio molto complicato, cioè facile rispetto a un'agricoltura dell'Appennino, o comunque di un'Italia dove, come dire, la morfologia è molto variegata, monossessioni insomma sono all'ordine del giorno. Ecco, quindi insomma non è facile lavorare in questi territori, però insomma ci stiamo. Nulla lo sapevano, non gliene frega niente. Ma entrambe le cose, direi, cioè nel senso non è mancanza di disinformazione, ci verrebbe da dire, proprio perché è un tema che non è all'ordine del giorno del dibattito pubblico, nel senso sulla stampa, sui media, di essere in un certo senso succubi comunque delle multinazionali, delle sementi, quando ci si rende conto di essere di fatto in un certo senso schiavi, uso questo termine forse un po' forte, di quello che è un po' il sistema, qualcuno si fa delle domande, ecco, però chiaramente non ci sono, non siamo noi che da dover dare probabilmente le risposte strutturali, però insomma l'abbiamo visto un po' anche dialogando anche a tu per tu con varie, ma in realtà alcune si questionano su questo, però ecco, non, diciamo che il panorama non è super roseo, però gli spiragli secondo noi insomma per fare dei ragionamenti. Ma allora sì, noi siamo una delle realtà che hanno un po' fatto partire il processo, che di fatto appunto noi comunità vicentina per l'agroecologia avevamo cercato di fermare la vendita di 8 ettari di terreno di questa cascina al tempo, quindi quello che è successo è stato che il comune ha venduto 8 ettari di terra a un'azienda privata, insomma a una campagna, mobilitando un po' anche le altre varie realtà della città, quindi diciamo sull'onda di quello che è un po' come slogan, filiere e quant'altro, abbiamo aggregato un po' di realtà della città e della provincia, diciamo, su questo, per prendere proprio in gestione questi spazi. L'edificio purtroppo è abbastanza messo male, però stiamo lavorando sul terreno, su ASS, che è l'inquinamento appunto delle falde acquifere di quei territori, e quindi di fatto ad ora stiamo facendo delle analisi, il primo ali e farro e quant'altro, insomma abbiamo avuto delle risposte molto positive, nel senso che i grani appunto non erano inquinati, tra 3-4 metri quadri per varietà. Quest'anno abbiamo deciso di seminare circa 3.000 metri e quindi adesso abbiamo messo giù, mi pare sempre, una popolazione evolutiva, se non vado errato, che si trova mensilmente la domenica, di solito c'è una parte di lavoro in campo la mattina e poi c'è questa assemblea più altre realtà. Oltre alla parte agricola, di quante persone stiamo parlando più o meno, per capire? Ma allora guardi, ci ho deciso un po' per caso, diciamo, e vorremmo appunto provare a rifarlo anche quest'anno in base verso settembre, con un programma che, dice, per dirvi, l'anno scorso abbiamo coperto un po' i temi che ci stanno più a cuore, abbiamo una cosa di operativo per smuovere questo tema, un po' simile a Trappellienze, se avete presente, in Francia, tra tutte le varie realtà, reti venete, per rilanciare una sorta di coordinamento, per così dire, tra tutti questi dei percorsi un po' anche più a livello regionale. È un po' l'iniziativa di scambio semi che c'è stata, di fatto segue un po' questa dinamica che conoscete anche voi. Mm-hmm. E quello che abbiamo cercato di fare quest'anno con il festival, che è stato diciamo un evento, se guardiamo l'agricoltura degli anni 50, della rivoluzione verde e così via, era un'agricoltura molto interessante. Non mi sorda tanto la differenza dell'alimentazione fra campagna e città, ma quello è... Belli impacchettati, se volete vedere, se volete animare, se volete chiacchierare, insomma, ne avete, ecco, e quindi vi auguro buona visione e buon proseguimento di settimana. Ciao ciao! See good plane, good time.